Crucelle, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tanto per noi, ce ne frega niente, nulla, zero. Allora, caro David, la cosa più incredibile del weekend è che il Partito Democratico, che prima crocifiggeva, senza dirlo esplicitamente, insomma, un po' alla maniera del vecchio Partito Comunista, no? Cosa facevano? Crocifiggevano Marino, lo volevano cacciare. Improvvisamente il sindaco di Roma Marino diventa l'unico salvatore possibile, l'ancora. Nonostante le cose che escono fuori, perché sarà pur vero che Marino non è coinvolto per adesso, non è coinvolto nello scandalo, e però durante la sua amministrazione i soldi dati alla cooperativa di Buzzi sono aumentati, pare gli abbia fatto anche uno sconto su un immobile, sull'affitto di un immobile. Sappiamo che ha preso i soldi della campagna elettorale, metà, 30.000 euro della campagna elettorale, eccetera eccetera eccetera. Giustamente, secondo me, Marione Adinolfi, e su questo ho cambiato idea, e me ne vanto di avere cambiato idea, Marione Adinolfi dice che bisogna commissariare Roma. Marione Adinolfi. Adesso stop alla politica. Adesso poteri straordinari a un commissario, no, scusate, con Marino, grandi capacità. Marino aveva promesso di dare lo stipendio da sindaco, il primo stipendio alla cooperativa 29 giugno, adesso dice non ho dato lo stipendio perché mi sono dimenticato. Sentite. Non l'ho dato sinceramente perché me ne sono dimenticato, perché ho iniziato a governare la città, ma come da sempre facciamo nella nostra famiglia, aiutiamo con quei pochi soldi in più che possiamo mettere a disposizione. Cioè, qui è due volte colpevole: primo di avere preso per il culo questi delle cooperative dicendo che avrebbe dato il primo stipendio, dunque uno si fa bello, no, di fronte a tutti, do il mio stipendio, il mio primo stipendio alla cooperativa dei carcerati, poi ovviamente dopo essere diventato sindaco se ne sbatte i coglioni, che cosa fa? Non dà questo stipendio perché non è che si scorda, non lo dà perché si fanno 40 promesse in campagna elettorale. Una cosa pazzesca, dai. E poi dice anche con noi gli affari sono finiti. Ma veramente quelli della cooperativa di Buzzi non sono finiti per niente, eh? O magari altri affari, non lo so. Quelli della cooperativa di Buzzi, e di Carminati insieme, ovviamente, sicuramente non sono finiti. Ma come poteva sapere lui? Ma non lo so come poteva sapere. Sono finiti gli affari della cooperativa di Buzzi o no? Non sono finiti. Sicuramente no. E allora non sono finiti. Ma tutti pensavano, Beltroni, Alemanno, la responsabilità politica è uguale. Avevano le mani in pasta dentro quella cooperativa che facevano affari. Marino. E pensavano di fare una cosa sociale. Invece il sindaco pensava di fare una cosa sociale importante. Ma tutti pensavano di fare una cosa sociale. Tutti. Però vabbè, ma purtroppo è così. E infatti purtroppo è così. A pagare, ha pagato. Purtroppo. Si sono dimessi. Gli direttamente coinvolti. Ma azzerare tutto. Non si può più fare nulla a Roma. Nulla. Forse è vero. Commissario forse straordinario. Vero, ma, azzerare tutto. Azzerare forse tutto. Dirette Marino non ne ha. Marino. Dicono che quando arriviamo noi gli affari sono finiti. Beh, io glielo dico proprio in faccia: con noi gli affari sono finiti. E se ne vadano da questa città, si vergognino di stare in questa città. Noi stiamo dall'altra parte. Mamma mia, a me queste parole al vento sono quelle che mi danno fastidio. Noi stiamo dall'altra parte, si vergognano di fare gli affari. Li hanno fatti lo stesso. Li hanno fatti lo stesso gli affari. Sono aumentati i soldi che vengono dati alla cooperativa di Buzzi. Certo, nessuno poteva sapere, forse il sindaco non poteva sapere che erano dei delinquenti, dei malandrini. Sentiamolo Marino appunto su Buzzi, Non sapevo che fosse un malandrino. Beh, ci mancava pure questo. Non sapevo che la persona che coordinava questa cooperativa era un malandrino, un delinquente. Ma d'altra parte sì, lei in studio quante persone... In questa vicenda di Roma, caro Parenzo, c'è anche il litigio tra la Boschi e Salvini, che non ha nulla a che fare con Roma, però tra i temi politici litigano Boschi e Salvini e litigano ancora a proposito, credo, delle foto, della foto di Salvini nudo. La Boschi dice che è fascista, non mi preoccupa la foto di Salvini, ma il fatto che sia fascista, sia di destra, certo. Boschi. Sinceramente non mi preoccupa la copertina di oggi di Salvini, a me preoccupa quando Salvini va a incontrare la Le Pen, perché lì c'è un problema. Quando vai a incontrare l'esponente di un partito che tecnicamente si rifà al fascismo, allora sì, lì metti in luce come la pensi davvero, e questo mi preoccupa perché nella mia famiglia, in casa mia, mi hanno insegnato... Cioè la Le Pen è un partito che non è fuori legge, è un partito della destra francese, e lei è preoccupata dal fatto che c'è un partito italiano che fa un accordo con Marine Le Pen. Non è la sola a esserne preoccupata. Ma sì, ma non è la sola, ma che vuol dire? Ma che è una critica? Sono preoccupato più che dalla foto, da quella alleanza, su questo ha ragione. Ma quale partito razzista poi? È pieno. Ma quale partito razzista? Ma di che stiamo parlando? No. È un partito liberale. Ma che c'entra liberale? Ma è un partito razzista. Razzista lo consideri? Razzista. Quello della Le Pen? Assolutamente sì. Partito razzista. Parenzo, due punti. Il partito della Le Pen è razzista. Ma guarda, io benissimo. Sono tornato oggi da Londra. Basta vedere cosa scrivono i giornali inglesi. Salvini. Anche del signor Farage. Salvini. Se lo dicono loro stessi, scusa. Salvini. Non mi preoccupa la copertina, quanto mi preoccupa quando incontro la Le Pen, lì si vede come la pensa, e mi preoccupa perché a me hanno insegnato ad avere paura del fascismo. Questo è, diciamo, lo dico correttamente, signor. Ma in sintesi la Boschi l'accusa di essere un fascista. E mi sembra Cappuccetto Rosso che ha paura del lupo mannaro adesso. La signora Boschi dovrebbe fare le riforme in Italia, e già questo è allucinante. Non do giudizi sulle foto e sui bikini che non mi interessano. Io vado orgogliosamente d'accordo con la Le Pen. Oh, ma nel weekend c'è stata una cosa che ha sconquassato il quadro politico italiano. No, ovviamente non è così. Ma durante una cena in un ristorante milanese, Berlusconi ha proposto a una persona di candidarsi a sindaco di Venezia. La signora Venier. Allora, questa persona qua ci sta riflettendo, non ci pensa nemmeno lontanamente. Certo, è molto popolare in televisione, dopo tanti anni di televisione. Mara Venier è con noi, buonasera. Eccomi qua, ci siete riusciti ad avermi. Ciao, come Mara, va? Ciao. Come va? Ciao a tutti, ciao. Senti, allora, com'è andata innanzitutto? Ricostruisci un po' dalla tua viva voce questa proposta. che è avvenuto concretamente? L'ho spiegata molto bene oggi al Corriere della Sera, ripeti. Al Corriere della Sera, la mia amica Maria Volpe, l'ho spiegata molto bene com'è andata. E ripeticela a noi. Ma visto che da stamattina che ti sto rompendo esatto. I coglioni, eccetera. Allora, è andata come ho detto, c'è stata questa cena naturalmente in un ristorante qui di Milano, sì. Per poche persone, era una cena per signorini, per il lancio del suo libro. E e c'erano, io sono peraltro arrivata molto tardi perché ho confuso l'orario, io pensavo le 9 invece era le 8. Mamma mia. Quando sono capisci che grave situazione. Sono entrata, naturalmente erano già tutti seduti. E ma a Milano si mangia alle 8, mica tu sei abituata a Roma ormai a mangiare alle 9. No, ma proprio ho sbagliato io di solito mangio alle 7:30, pensa, mi sono anche rotta le scatole a casa ad aspettare, ma insomma va bene. Vabbè, è sei arrivata così. Alle 9, ritardo davanti a tutti, figuraccia pazzesca. Sì, figuraccia pazzesca, peraltro non avevo gli occhiali perché volevo fare un po' quella che entra senza occhiali per non far vedere che sono completamente ciecata e non riuscivo a capire dove erano i tavoli, non riuscivo a capire dove stavano. Tripla poi figuraccia. Tripla figura, ho messo gli occhiali e ho salutato poi un po' di amici che erano lì e poi sono stata chiamata al tavolo dove c'era il presidente. C'era il presidente. Vabbè, insomma, che ti ha detto in sostanza? E mi ha detto siediti qua, ha fatto alzare signorini e mi ha voluta seduta accanto a lui al tavolo. Sì, io stavo tra Marina, lui era vicino a Marina, io mi ha messo seduto. E praticamente mi ha detto che lui aveva fatto fare dei sondaggi in queste ultime settimane. E usciva fuori che tra i veneziani il sindaco di Venezia, e il mio nome era uscito fuori, insomma, con un gradimento altissimo. Per cui lui mi ha. E tu sei rimasta lusingata da questa cosa? Ma io sono rimasta, non capivo sinceramente se all'inizio se fosse una cosa poi vera. Se era uno scherzo. O se era, poteva essere uno scherzo, invece la cosa era molto seria, tant'è che poi al tavolo c'erano altre persone che mi dicevano guarda che è così e mi ha proposto di candidarmi a sindaco di Venezia. Io l'ho ascoltato, la mia risposta immediata è stata ma come proprio adesso presidente che sto lavorando a Mediaset e mi diverto anche molto. Magari non a caso. Perché sono entrata con questo programma Tu sì che mare, che è andato molto bene, mi sono anche molto divertita. E questa è stata la mia risposta. Poi ecco, ma che succede adesso, Mara? Io voglio capire, tu ci stai pensando? Che succede? È chiaro che l'offerta c'è stata e sono lusingata. Se è un'offerta comunque no, che mi lusinga, che mi fa piacere. Io amo la mia città, sono veneziana, che se sto lontana da tanti anni, ma negli ultimi 2 anni peraltro, più o meno ogni settimana e ogni 10 giorni io vado non a Venezia ma a Mestre a trovare tua mamma, a trovare mia mamma. Ho chiesto tempo per pensarci perché dunque non lo escludi, non diciamo. Te lo devo spiegare perché certo. Ecco, ma che posso dire soltanto che da ieri io avrò ricevuto non so credo 300 telefonate, mi sta chiamando chiunque, veneziani, non veneziani, amici, non amici, politici, nomi non te li faccio manco sotto tortura. Ma dimmi una cosa, che percentuale dai a queste cose, al fatto che tu accetti una cosa di questo tipo? Ma guarda, non do percentuale perché che anche se non sembro forse, cioè sei tentata? Ma tentata, certo, l'idea non mi dispiacerebbe affatto, ma cioè una donna di spettacolo può guidare una città secondo te? Beh, se è il caso, Reagan è diventato presidente degli Stati Uniti d'America, faceva l'attore, faceva l'attore. Insomma, che dici tu? Ma tu ti senti in grado? Vabbè, no, meglio di quello che hanno fatto a Roma. Sento, meglio di quello che hanno fatto a Roma, si può dire. Insomma, e non soltanto a Roma. E non soltanto a Roma, se vogliamo vedere. Cioè tu dici peggio di quello che hanno fatto i politici tradizionali? Io penso di essere una persona onesta, diretta, trasparente. Sì. Non ho bisogno di rubare perché ringraziando Dio il lavoro mi è andato molto bene e ho guadagnato molto. Beh, mi sembra che sei già, come dire, predisposta però. No, ecco. Ma questo no, siccome tu mi dici, ma chiaramente tu fai la domanda, io ti dico che già questo nel panorama che abbiamo sarebbe, della politica sarebbe una cosa. Si pone molto bene, no? È già qualcosa, io penso, no? Assolutamente, un attimo solo da che ci fermiamo. Da qui ad accettare, Giuseppe. Ce ne corre. Esatto. Ma la parola di tuo marito, che è Franco Carraro, imprenditore, eccetera, sarà decisiva? Non è Franco Carraro. Sì, scusa Franco, Carraro, scusa. Lui è Nicola. Nicola, sì, scusami. No, Nicola sta ai Caraibi e gioca a golf, guarda. Lui tornerà tra una settimana. Quella sera ti devo dire che io ho chiamato immediatamente Nicola per dirgli questa cosa. Lui naturalmente non ci ha creduto. Gli ho passato il signorini, ma non ci ha creduto. Poi chi veramente ha parlato con Nicola e ha detto guardi che è così, è stata Marina Berlusconi, insomma è Marina che ha parlato con Nicola e gli ha detto guardi che la proposta. Cioè proprio tutta la famiglia Berlusconi a favore della tua candidatura? No, ma non solo, anche tanti altri, ti devo dire la verità. E tuo marito che dice? Mi sembra che abbia una parola decisiva in questa vicenda, no? Mio marito mi ha detto non fare niente, aspettami. Non ha detto sei matta, ma che... No. Lui mi ha detto aspetta che torno, torna tra una settimana e se ne parla. Va bene, allora abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo con Mara Venier che ci dice qualcosa di più su questa cena in cui le è stato proposto, come avete sentito dalla sua viva voce, la candidatura a sindaco di Venezia. Devo dire la verità, al centrodestra non è che porta bene Venezia, perché si candidò Brunetta Parenzo qualche anno fa e prese una batosta, sembrava favoritissimo nei confronti del, come dire, non appariscente Orsoni, che non andava mai in televisione eccetera, che poi si è dimesso per le vicende che sapete, ma prese una batosta pazzesca. A fra poco. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico. No. La zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone e ripeto, lo dico con amore. Allora, caro Parenzo, qui c'è un fatto importante. Io voglio chiedere una cosa alla signora. No, pensa prima. Che se Mara Venier riesce dove Brunetta ha fallito, beh, sarebbe sì, strepitoso. Esatto. No, ma vorrei capire quale potrebbe essere il primo atto da sindaco. Facciamo un po' di così. Il primo atto per No, città, tesoro, questa è una trappoletta alla quale io non mi attacco. No, qualsiasi cosa così. Io dica. Qualsiasi cosa io dica, sono tutti pronti lì a dire vedi che stronzata che ha detto la Venier. No, non rispondo, me l'hanno chiesto tutti, non rispondo, non entro naturalmente nel merito. Un bel quartiere a luci rosse, stupendo, un quartiere a luci rosse a Venezia, io lo farei subito. Che dici? Un bel quartiere a luci rosse. È una proposta? Beh, io guarda, sono pronto a fare l'assessore. Assessore alla sessualità. L'assessore alla sessualità. C'è già un'altra attrice famosa che si è proposta come assessore. E chi è? Che te lo dico. Già c'è gente che si propone come tuo assessore, ma ti rendi conto? Ricevo messaggini continuamente. Però ti posso dire che a tavola quella sera io ho fatto una battuta e dico se fossi sindaco sposerei tutte le coppie di amici gay. Beh, questo già è importante. Questo è importante, questo è molto importante. Cioè, subito a Venezia registro per le coppie gay, immediato, subito, diretto. Beh, questo non è male. No, ma questo io figurati, guarda, questa cosa qua avrai l'appoggio. Non so voi come la pensate. Noi, però, io sono a favore di tutto. Noi siamo per venire sindaco. Noi siamo per venire sindaco. In ogni caso siamo per venire sindaco. Dura. Ma no. Ma Venezia è al disastro, commissariamenti, cose, casini. Ma lo so benissimo, guarda, è tutto oggi che mi chiamano i miei amici da Venezia. Ma sta già montando questa cosa, non ti puoi sottrarre alla fine, dai. Sì, la televisione. Sale come l'acqua. La televisione alta, l'hai Venezia, già fatta, sale. Mara, su, ma la televisione l'hai già fatta, ma basta. È vero, quello che dovevo fare ma l'ho fatto, sì. Non devo dimostrare più niente. Ma hai fatto già adesso sì, hai ripreso a lavorare con media, se magari condurrai un altro programma, ormai che devi dimostrare? Niente. Candidati col vento in poppa per certo. Ma è molto seria, che se va affrontata seriamente con un cambiamento di vita totale. Sì, certo. E questo si sa. Certo, qualcosa di Venezia bisogna sapere, qualcosa di Venezia appunto, bisogna sapere. Ma io so molto di Venezia. Sì. Sì. Dici? Sì. Ma quanti abitanti ha? Ah, mi fai le domande adesso. Quanti abitanti ha? Purtroppo pochi, residenti molto pochi, perché i giovani sono scappati tutti. Ma quanti? Quanti so? Ma guarda, non lo so esattamente. Ma come non lo sai? No, non lo so, quanti sono, ma sono molto pochi rimasti. 80.000 saranno. Ma che 80.000? Ma siete ignoranti tu? Ma siete ignoranti? Ma fai i conti di quanti sono, segui quello che dico io, ti dico che sono pochi. E quello è sicuro. Perché i giovani sono andati via da Venezia, questa è la verità. I residenti, parliamo di residenti. Comunque ragazzi, peggio di quello che si può fare a Roma con quello che hanno fatto. Ma tu che voto dai a Marino? Ah, ho sentito le dichiarazioni a Marino, cosa vuoi che ti do i voti di Marino? A Marino? Mi sembra tutto un gran casino, ragazzi. Quello non c'è dubbio. Mi sembra ma tu abiti a Roma, casino. È un disastro Roma. A Marino che voto dai come amministratore? Poco. Ma aspettiamo, vediamo. Quanto rimane? Ah, boh, ancora? Chi ne sa, boh. Senti, ma Renzi ti piace? A me è simpatico. Ti piace, eh? Sì. Poi tu sei una di quelle che si pensa sempre, Mara Venier è di sinistra. Ma è vero? Ho no? amici di sinistra. Anche a destra, ma tu sei a destra, a sinistra. Ma guarda, io apprezzo molto le persone, sai. Per cui io Renzi, guardo... tifi per Renzi, insomma, in sostanza. Beh, insomma, tifo per Renzi perché in questo momento lui sta dicendo delle cose importanti. Adesso noi aspettiamo poi che quello che dice venga anche fatto. Ma certo, non c'è dubbio. Tra mille difficoltà, indubbiamente. Comunque, molto comunque difficile. Comunque, sono 60.000 gli abitanti. Ma che sono 264.000, non dite ma nessuno. Vabbè, voi date i numeri. Anche Mestre. Dai numeri, no, lei perché Mestre Venezia. Ma perché Mestre Venezia. Vabbè. Ragazzi, non è importante. Bisognerebbe dai. Separare Mestre da Venezia. Questa è un'altra appunto. Cosa che bisognerebbe fare. E dai con la seconda si proposta. E dai con la seconda proposta. Si rifà il referendum. Senti, ma la svolta Francesca del Cavaliere ti piace molto? Ma sì, io sono per il matrimonio, per l'adozione. Ma io sono per i diritti. No, anche guarda, per l'adozione, no. Io adozione. Guarda, io sono soprattutto per i diritti. Penso e ti dirò che a me il termine omosessuale comincia a darmi molto fastidio. Meglio Frocio. Meglio Frocio. No, tesoro, questo lo puoi dire tu. Parlo gay. Di persone. No. Per me nemmeno. Sono persone come te, come me. Ah, come quello sì, ma quello noi. Pure io. Quello pure non io, mi piace c'è. Dare una definizione, non mi piace. Tu hai fatto un'intervista dove hai detto che ti piace andare a letto con le vecchie e no, le cose. Le vecchie, perché adesso anche non tu sei stato marchiato. Le vecchie. Non mi piace, non mi piace. Simbologie, non mi piacciono, capito? Per cui sono persone che hanno diritto ad avere. Vabbè, ma quello anch'io, che c'entra? La penso così, ma non è che uno si può chiamare gay o omosessuale. Se uno è gay o omosessuale, lo può dire tranquillamente, mica viene marchiato solo per quella roba lì, non c'è dubbio. Senti una cosa, ma allora qui tocca che tu scegli. Finita l'intervista? È finita o Isola dei Famosi o Venezia? È finita. Bisogna che scegli o Isola dei. Sempre isole sono. Due sempre isole, sempre isole sono. O Isola dei Famosi o Venezia, amica mia. O l'isola della Giudecca. È vero che c'è sta scelta o no? È vero o no? Tra un po' vedremo. Senti, ma vabbè, non c'è tempo, ti chiederei di Corona e tu vuoi la grazia, io no, però vabbè, non c'è no, tempo. Vabbè, dai. No, ma credo che la grazia che lui ha chiesto adesso in parte per questi 5 anni sia giusta, poi sia giusta. Lo stesso Trezeguet ha detto, ma io non sono stato ricattato. Però tanti altri sono nella sua condizione, vabbè, comunque. Sì, sì, ma forse ma vogliamo parlare, affrontare il tema della giustizia. Guarda, è lungo, già è lungo. Entrata in politica, Giuseppe. Lo vedi, ma lo sera. Vedi. Cazzo, ciao. Come mi ciao. Piace. Ciao cara, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao Zanzara, mamma mia, no, che fastidiosa. Come sei, comunque sei un po' bruttarello, anzi forse assai, capito? E non rompere tu il coglione, perché sei anche maleducato, stupido. Una cosa deve essere chiara, una cosa deve essere chiara in questa vicenda di Roma Mafia Capitale, Roma quello che volete. A parti invertite, il Partito Democratico non solo avrebbe chiesto le dimissioni, il commissariamento del Comune di Roma, ma il patibolo, la forca. Io non dico che bisogna chiedere la forca e il patibolo, dico che a parti invertite si sarebbe chiesta la forca, il patibolo. Ma è stato commissariato il partito. Ma chi se ne frega, la commissariamento del partito è una buffonata di cui la gente non capisce no, nulla. Qui la cosa importante è il comune. La cosa importante è il comune. Allora, adesso stanno tutti lì a fare i distinguo, a dire no, però questo non è il caso, però questo sì. Cioè, di fronte a un sindaco che dice di non conoscere il cosiddetto capo della cupola, perché di quello si tratta, no? Essendo il capo della cupola, il signor Buzzi, no? E poi sono insieme in una foto, che non vuol dire nulla, però sono insieme in una foto e tanti sono stati impiccati per molto meno. Ma il principale indagato della vicenda, oltre a Buzzi, è l'ex sindaco Alemanno. Ma l'anno mica è sindaco adesso. Perché è sindaco adesso. È il sindaco adesso. I principali protagonisti della vicenda, i principali protagonisti. Comunque, aspetta sono un attimo. Questi, dopo sì. Io. Non mi passi in base. C'è mezzo Partito Democratico, forse sono state addirittura truccate le parlamentarie del PD del 2012 con quelli di Roma, forse sono stati aiutati alcuni. Cioè c'è la responsabile del welfare che per carità non avrà fatto nulla, non è indagata, dice di essere stata criminalizzata e linciata, però dice sempre al cosiddetto capo della cupola, se noi crediamo che esiste una cupola, dice al cosiddetto capo della cupola grande capo, cioè gli si rivolge in questo modo. Cioè tu prova a immaginare un qualsiasi esponente della destra italiana, ma io non devo difendere la destra, non me ne fotte nulla. Qualsiasi esponente di Forza Italia, del PDL, che dice a uno che è considerato il capo della cupola, grande capo, grande capo. cioè cosa sarebbe accaduto? Questo come minimo ci sarebbero state richieste di dimissioni, arrestatelo, tagliategli la testa, mafioso, giudici che intervengono per associazione esterna, qualsiasi cosa, per concorso esterno, qualsiasi cosa, diciamo la verità. Adesso invece noi interviste, puntualizzazioni specifiche, linciaggi, i giornali mi linciano. È questo che fa ridere, è questo che è comico, è questo lo scandalo, oltre allo scandalo ai soldi pubblici che sono stati dilapidati in questa vicenda, in questa vicenda. E poi scusa, non c'hanno sempre la sinistra italiana, il Partito Democratico che è al governo in tutta Italia, compresa Roma, non ci hanno detto che esiste anche una responsabilità politica per anni? I politici, cioè i principali rappresentanti, esiste una responsabilità politica. Ora, se in un anno e mezzo da sindaco non hai, come dire, indagato, non come la polizia, sulla principale cooperativa che prende appalti dal comune, ci sarà o no una responsabilità politica? Ripeto, a parti invertite, la ghigliottina, la ghigliottina, questo è il punto. Orfini, dato che l'hai nominato te, il nuovo commissario del Partito Democratico a Roma, che dice della Campana, responsabile del welfare del Partito Democratico, che si rivolge al grande capo Buzzi. Sentite. Ma Michela Campana saluta dicendo grande capo, più o meno è un, io dico ciao caro, lei dice ciao grande capo, lo diceva anche a me e a tanti di noi. Ma questo mi pare assolutamente plausibile. Sì, è tutto, anzi, quando, quando riguarda gli altri, è tutto plausibile. Per carità, ragazzi, ma quando c'erano gli altri in mezzo, quando c'erano quelli della destra, andavi a guardare la singola intercettazione per massacrarli. Adesso siamo tutti lì a puntualizzare, a fare. È l'ipocrisia di fondo che mi fa schifo. Mi fa schifo l'ipocrisia. Non voglio puntualizzare niente perché non c'è nulla da puntualizzare. C'è un'inchiesta da seguire. Hai massacrato con le intercettazioni e moltissimi politici di destra. Adesso stai puntualizzando. No, questa Campana non si è dimessa, nonostante questi messaggi. Da responsabile welfare del PD. Da responsabile welfare del PD finché non avrà chiarito. Non mi interessa, siccome viene considerato. Siccome viene considerato. No, per avere detto grande capo al cosiddetto capo della cupola mafiosa di Roma. Capito? Non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco. Intanto ti dimetti da responsabile welfare del PD, poi ne parliamo. Ma per aver detto cosa? Nel passato c'erano delle ipotesi. È la stessa cosa che tu non ha commesso niente. È la stessa cosa che io non lo dico perché deve fare così. Io facevo dei per coerenza. Ma non c'entra, ma non è tutto nero o bianco, perché le cose sono più complesse. Quando di mezzo c'erano delle con gli altri che sono sempre più complesse, certo. Quando erano indagati, certo. La Boschi contro De Rita, la Boschi contro De Rita. Io sono convinta che De Rita abbia tutte le caratteristiche e tutte le competenze per ricoprire quel ruolo. Il punto vero è che diamo un messaggio a tante altre persone in gamba, competenti, che ci sono nel nostro paese, che forse, appunto, come diciamo spesso, conta più chi conosci che cosa conosci. Sapete il caso De Rita, no? Quello che per me resta. In questo caso sbaglia. Quello che per me. Guarda che non si sente una mazza da dove ci stai parlando. Secondo me da casa mia, secondo me in questo caso sbaglia. Se non avvicini la bocca al telefono, figlio mio. Secondo me in questo caso sbaglia, perché De Rita è a capo di un'azienda privata e fa come i noccomi gli imprenditori, qualunque cosa gli va da. Diciamo che nel momento in cui no, tu. No, polemica idiota, Estelle. Nel momento in cui tu pubblichi un rapporto dove parli di giovani, umiliati. Ma che c'entra? È il suo lavoro. Nello stesso momento dai a tuo figlio, un incarico come direttore generale nello stesso posto. Non è la sua azienda, non è la sua azienda. È la sua azienda. Il fatto che lui abbia contratti con il pubblico, cioè che il pubblico lo riconosca come interlocutore. Vabbè, ma tu difendi pure De Rita, che vuoi? Difendi De Rita. Non ho contratti. No, ma lo difendi. Ma lo difendi però. Non ho nessun rapporto e manco. Ma che c'entra i rapporti? Lo stai difendendo? Lo stai difendendo, punto. Perché stai dicendo una stronzata. Va bene, sto dicendo una stronzata. Come dire a Barilla, al signor Barilla, no, non puoi mettere. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. No, ti faccio l'esempio. Se Barilla rifornisse delle aziende pubbliche, cioè avesse dei contratti per rifornire delle mense, è uguale, è più un'idiozia questa polemica. Benissimo. Unica, e non me ne frega nulla di Barilla, né di Barilla. No, va benissimo, va benissimo. Se Barilla, facciamo l'esempio di Barilla o di un'altra azienda. Senta, senza i contratti. Se l'azienda Bubù, ma non c'entra niente, se l'azienda Bubù rifornisce le mense di tutta Roma, l'azienda Bubù, quindi ha un contratto con il pubblico l'azienda Bubù. Ma no? Non è una cosa che si fa se tuo figlio è bravo, lo metti da un'altra parte. Io, se mio figlio e non è Barilla, non è un'azienda privata. Mio figlio è bravo, lo metto. Ma non è la sua, non è la sua peraltro. No, non è la sua. Perché è privata. Non è la sua. Il fatto che sia stata riconosciuta la sua fondazione con decreto del Presidente della Repubblica e sia stata riconosciuta non attribuisce a questo alcun valore pubblico. Non è sua, non è di proprietà, non è sua. Non è sua. Non è sua. Ma che dici? Non è sua. Ma non è sua. È un'azienda privata. Ma non è sua. L'amministrazione fa quello che gli pare. Vabbè. Salvini vorrebbe vabbè, polemica idiota. Salvini come Presidente della Repubblica vorrebbe, sentiamo. A me piacerebbe una persona che arrivi dal di fuori del mondo della politica o dell'impresa o della cultura o delle professioni. Se avesse un vent'anni in meno vedrei bene Bernardo Caprotti, patron dell'Esselunga, o stando al mondo del giornalismo e delle menti aperte, pulite, terze. Io leggo sempre con interesse e stupore gli articoli sia di Piero Stellino che di Vittorio Feltri. Quindi avere un presidente che rappresenta finalmente tutti. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi, non lasceremo Roma in mano ai ladri. All'Assemblea dei Giovani Democratici, battuta su Grillo, anche grazie a voi torna lo spettacolo. Mafia Capitale, in alcune intercettazioni si parla di trasferimenti di soldi in Argentina da parte dell'ex sindaco Alemanno, lui replica solo millanteria, la procura nessun riscontro. L'Eurogruppo all'Italia, fare di più per ridurre il deficit, Padoan non ci chiedono una manovra aggiuntiva, riconosciuto lo sforzo per le riforme. Gli investigatori a casa della madre, il piccolo Loris, la donna portata di nuovo in procura assieme al marito Davide, spunta l'ombra di un secondo assassino. Primi arresti negli Stati Uniti dopo la notte di violenza a Berkeley e Oakland, scoppiate la protesta contro le recenti uccisioni di neri disarmati da parte di poliziotti. In India proteste per un nuovo stupro, una donna violentata in taxi dall'autista, il governo mette al bando il servizio Uber, applicazione taxi per gli smartphone. Mango muore per un infarto mentre canta sul palco di Policoro, aveva da poco compiuto 60 anni, Mogol perde un amico, in rete l'omaggio dei fan. Alemanno sull'Argentina, l'Argentina per carità, se uscirà qualcosa fuori, a me non me ne frega niente di Alemanno, io ho sempre detto che l'amministrazione Alemanno era un disastro totale, concordo pienamente con quello che ci ha detto la settimana scorsa il suo ex assessore alla cultura, figuriamoci, non ho nessun problema da questo punto di vista, però è curioso che adesso Alemanno, a parte che Roma è stata governata negli ultimi vent'anni solo 5 dalla sinistra, per il resto solo da amministrare dalla destra, solo da amministrazione di sinistra, e il sistema cosiddetto Buzzi delle cooperative eccetera è iniziato con le giunte di sinistra, ma questo non è che se uno lo ricorda è di destra, è un fatto, è una realtà. Ora Alemanno, un sindaco, anzi no, su Carminati, sentiamo Alemanno su Carminati. E quando poi è tornato in circolazione, che fosse tornato in circolazione, io l'ho letto sulle pagine dell'Espresso, mai ho potuto capire, io pensavo che era o morto o in pensione, poi ho letto le pagine dell'Espresso, ho detto attenzione, e ho chiamato tutti, ho detto attenzione, cercate. Cioè, chi ha chiamato? Ho chiamato tutti i miei collaboratori, tutte le persone che adesso sono anche sotto indagine, li ho chiamati e ho detto attenzione, nessun contatto, neanche in diretta con questo personaggio. Alemanno ci vuole far credere che pensava che Carminati fosse morto, morto. E poi di aver avvertito tutti i suoi collaboratori di non avere nulla, di non avere rapporti con Carminati. Vabbè. Poi dice ancora che un sindaco non può sapere cosa fanno tutte le persone a lui vicino. Vabbè, comunque è accusato anche lui, Io mi posso prendere tutte le responsabilità politiche, però dico, non si può pensare che un sindaco conosca esattamente tutto quello che fanno le persone, anche quelle che sono vicine. Emanuele da Udine. Sì, pronto, buonasera Cruciani. Dimmi, sì. Salve, buonasera. Allora, io volevo dire questa cosa qua. Io sono di solito una persona calma, pacata, portata al dialogo, ma mi sono rotto i coglioni, va bene. Allora, in 6 mesi abbiamo avuto Expo, quel cazzo di Mose che non serviva un cazzo di niente, se doveva solo rubare soldi. Adesso si prende, si arriva a questa cazzo di Roma e si viene a scoprire che c'è la mafia. Oh, c'è la mafia. Ma di che cazzo stiamo parlando? Commissionare Roma, qua bisogna commissionare il paese e mandarli a calci nei coglioni. Sono gente incapace, persone che hanno dilaniato un paese. Lei sembra Barnard un po'. Emanuele, però no, ma lei ha, no, dall'accento, dalla voce. Però devo dire che lei in fondo ha ragione. Cioè, lasciamo perdere il paese. Qui non c'è altra strada rispetto a Roma. Cioè, e rispetto a quello che sta uscendo fuori. Cioè, la politica a Roma non è in grado di mettere un argine a questa roba qui, perché è inutile dire, senza questo schifo di Roma, cioè le mazzette, i finanziamenti illegali, l'aumento sproporzionato della spesa pubblica a Roma, che è il vero scandalo. Pensate che lo Stato ha dato a Roma negli ultimi anni, sia per a partire dal 2008 fino al 2004, fino ad adesso in pratica, giunte Alemanno e in parte Marino, 4 miliardi di euro, capito Emanuele? 4 miliardi di euro per ripianare i disastri di Roma. Allora, io sono d'accordo con lei, la politica non è in grado di mettere un argine a queste cose. Dunque Roma bisogna commissariarla, bisogna commissariare un perché non mette Andrea Guerra, dato che ha preso un ennesimo consigliere economico, no Renzi, mettesse Andrea Guerra, che pure è romano, io lo conosco perché andavi in una scuola praticamente nella stessa, era un anno più grande, ma insomma l'ho conosciuto, è un romano, anche se non vive a Roma da tanti anni. Mettesse Andrea Guerra commissario a Roma, adesso non si fa così, lo so che c'è tutta una procedura, però questa è la strada, commissariare, azzerare. Cosa può fare adesso Marino, oggettivamente, fosse anche la persona più, cosa può fare Marino? Un attimo solo, la pubblicità, torniamo. Lei sta diventando una persona spregevole. Mia moglie è riuscita a farmi perdere le staffe come Cruciani. Ai, non rompere i coglioni, Cruciani! Ti prego. Oh, l'amico Pennacchi è riuscito a litigare, caro Parenzo, anche sul bosco verticale di Boeri, eh? Una cosa pazzesca. Pennacchi contro Boeri sul bosco verticale, senti. Ma c'è una cosa di architetti di sinistra che non ti piace a te? Beh, a me non piaceva molto Lago e Filo, ad esempio, quello che c'era, quello di Cadorna. Beh, quello che hanno fatto Cattelan, a Cattelan, ma però Cattelan. No, Gaulenti. Ah, Gaulenti, sì. Mi pare fosse Gaulenti. Quello non mi piace molto, ma è lì va a gusto, eh. Pennacchi Boeri, senti. Non mi piace Il bosco verticale, non è che mi piace molto. Perché non le piace? Perché è quasi sicuramente, è storicamente necessitato oramai verticalizzare la città, fare la città verticale. Quindi i grattacieli si possono pure fare, però non si capisce perché dobbiamo verticalizzare pure i boschi. Perché respiriamo un'aria migliore, vediamo il verde che fa bene anche alla psiche. Adesso divento io il difensore del problema di Boeri, ma il problema non è sostituire i boschi esistenti. Quando si parla di biodiversità significa avere rispetto di tutte le forme di vita. Ma glielo avete chiesto il permesso all'albero, se è d'accordo lui, a stamma, a 100 metri di altezza? Ma che stiamo a scherzare? Una pianta che è fatta per crescere ha bisogno pure delle radici, del suo rapporto. Che ne sai di quello che pensa un albero? Come si dice? Gliel'hai chiesto? Pennacchi è qui, esagera. Ha chiesto il permesso all'albero per essere impiantato a 100 metri. Non mi piace, non è il diritto di mettere una pianta, un albero, al centro dell'attenzione, non ce l'ha. Vabbè, ma ci mancherebbe, ma no, cioè, abbiamo l'università, abbiamo il diritto di poter mettere, mettere un albero ad una corte, mettere l'albero sul parcheggio, tanto male, quindi lei sa benissimo. Ma sta comunque per terra, le sue radici stanno per terra. Ma lei non sa quello che sono le radici sull'albero. Lei non lo sa quello che non sono le radici, che ne sa lei? Mi sa che è un giudizio molto superficiale, comunque lo colgo, mi fa piacere. Superficiale sarà lei. No, il giudizio è estremamente... Aspetta, io adesso è lei comunque, comunque, è la sua hubris, la sua, diciamo. A un certo punto è stato riconosciuto durante gli scontri alla Scala, che sono ormai un classico, gli scontri alla Scala, ormai li considero quasi una roba inevitabile, insomma, gli scontri davanti alla Scala, alla Prima, le solite puttanate, è stato riconosciuto l'ex deputato dell'Italia dei Valori Barbato, cioè Barbato è spuntato all'improvviso. Senti Barbato, che cazzo ci faceva là, il signor Barbato? Sono l'onorevole, sono un deputato Barbato, Italia dei Valori. Ma non è vero, che sono un deputato, non è vero, cioè eri un deputato, eri, sono un deputato Barbato dell'Italia dei Valori. È cosa pazzesca, dai. Va bene, andiamo. C'è ancora Emanuele da Udine, incazzato come una belva, Emanuele. C'è ancora Emanuele da Udine, bravissimo, incazzato come una belva, perché veramente, mi creda Cruzani, è una cosa indegna. Allora lei me lo dica, guardi, in un paese normale, se fosse successo un decimo di quello che è successo in Italia in quest'anno, cosa cazzo sarebbe successo? Qua invece facciamo fare tutto. Marino non è capace neanche di fare la O col culo sul foglio, col fondo del bicchiere. Ma dai, ma per favore, Cruzani, abbiamo un piazzista presidente del Consiglio, abbiamo un condannato che dice che deve essere, bisogna andare alle elezioni a Roma, ma di che cazzo stiamo parlando? E dopo vuole mettere la veniera, sindaco di Venezia, una che ha copulato con Jerry Calà, cazzo. Vabbè, questo che c'entra, scusi, ma però. Ma sta scherzando, Cruzani, ma cosa ma ti prego, sapere ti prego. La veniera di Venezia? Ti prego, hai ragione. No, però Emanuele, ti prego. Però scusami. Io le posso dar ragione. Ho capito, ma Cristo santo, ma ho capito, ma se quello vuole mettere mano a maniera, sindaco, ho capito, ha copulato qualcosa, non c'entra niente, uno può avere scopato con chi vuole, scusi. Ma si rende conto che personaggio è Calà? Cioè, voglio dire, non è Rubbia. Ma che c'entra? È Jerry Calà. Ma quello è stato puttana. Uno con cui ha avuto una storia maraveniera, scusa. Ma dai, ma per favore, ma Cruciani, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia più totale e tutti stanno zitti. Ma stiamo scherzando. Ma chi sta zitto? Nessuno. Ma chi non sta zitto? Nessuno. Ma sì, ma cosa fa la gente? Fanno queste cazzo di protestine fuori dalla Scala, ma stai fuori con la testa. È come cazzo, ma io voglio dire, un ex della banda della Magliana ti ha contatti col comune di Roma. È come se puttana Eva Mengele, Dio Bono, avesse dei contatti con il governo tedesco. Ma di che cazzo stiamo parlando? Questo devo dire la verità. No, però devo dire la verità, non è sbagliata come cosa. Non è sbagliata. No, non è sbagliata. Di bene che è morto De Petris, cazzo, se non l'avevamo ministro della giustizia. Ma io non so dove siamo in sto cazzo di paese. E purtroppo non dice un cazzo. No, la gente dice, purtroppo si può arrivare per il perdonismo italiano, perché le leggi italiane sono fatte come sono fatte, al fatto che c'è uno che ammazzò un tizio anni or sono, poi si è riabilitato col carcere e dopo ha costruito una cooperativa con cui fa affari col comune, affari per modo di dire, ovviamente, fa affari che danno lavoro a un sacco di persone, che poi nonostante i bilanci del comune non si capisce perché questa cooperativa debba ricevere appalti per il verde, ma non c'erano non so quanti dipendenti del comune, abbiamo bisogno pure di una cooperativa, perché quello è il problema. Il comune di Roma ha talmente tanti dipendenti che la città dovrebbe essere specchiata e dovrebbe essere, come dire, a posto solamente con i dipendenti del comune. Invece no, per fare mangiare tutti a spese nostre ci sono le cooperative degli ex detenuti, che solamente reclamano, oddio perdiamo il lavoro, oddio che succederà, eccetera eccetera, le quali cooperative ingrassano il debito pubblico, perché montano e gonfiano gli appalti, favoriscono l'arrivo dei migranti qui, gonfiano i campi nomadi, così mangiano tutti e paghiamo noi. Giovanni da Pavia. Ciao Cruciani. Dimmi. Tutto bene? Bene, dimmi. Ascolta, no, io volevo intervenire sull'Avenir. C'ha ragione il telespettatore di Udine. Scusa, ma come si fa? Vabbè, ho capito, ragazzi, ma sembra che l'ho proposta io, sindaco di Venezia. Scusami, abbi pazienza. E poi comunque devo dire la cosa, ma peggio di quelli che hanno governato fino adesso le città, portando Roma al disastro totale dal punto di vista del denaro pubblico, soprattutto da questo punto di vista, non parliamo poi di come è conciata la città dal punto di vista estetico, il traffico, eccetera, ma semplicemente per i soldi che dobbiamo sborsare noi per mantenere Roma. Ma guarda, devo dirti la verità, Mara Venier, sindaco di Venezia, te l'appoggio Giovanni. Tu, no, ascolta però, ma con tutte le persone curriculate, con tutte le persone che hanno veramente i meriti, capito, il curriculum e i meriti, ma come si fa? No, ma scusa, abbi pazienza Giovanni, ma non è che quelli che avevano curriculum lunghi così hanno... Guarda Orsoni come è finito a Venezia, che era un professorone pazzesco, altro che... No, guarda che... Altro che curriculum. Giovanni, allora? Perché non impariamo dagli altri paesi? Cioè, per governare... Aspetta un attimo, aspetta, che voglio fare una telefonata, aspetta. Pronto? Dottor De Rita? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sì. Senta, le volevo chiedere una spiegazione su questa polemica intorno a suo figlio. Non parlo dell'argomento, per favore. No, però mi scusi, lei ha detto una cosa, ha detto sono tutte cazzate, rispondendo a un giornalista del Fatto Quotidiano. Questo ce la può spiegare perché ha risposto così? Posso spiegarlo con un lungo comunicato stampa quando lo farò. Ma no. non lo improvviso. No, ma non voglio che lei improvvisi nulla. Guardi, non... Mi conosce abbastanza per sapere che non mi piace polemizzare, quindi voi siete giustamente sulla polemica, io non voglio polemizzare, ieri anche il ministro ha polemizzato, vi rinviate un giochetto in cui non si può non parlare d'argomento. No, però mi scusi. Io un sì. giorno. Ma suo figlio resta, la nomina resta o ha intenzione di mettersi suo figlio? Ma per quale ragione? Beh, scusi, è suo figlio, professor De Rita, è suo figlio. Lei si rende conto che mentre lei fa un rapporto, lei insieme ad altre persone, sui giovani umiliati, nello stesso tempo lei non personalmente, ma il suo istituto, il Censis, nomina suo figlio direttore generale. C'è qualche contraddizione o no? No. Secondo lei non c'è nessuna contraddizione? No, non vedo perché. È un'azienda privata in cui si fa un... Le regole di selezione di un'azienda privata, vado a chiederla a qualsiasi imprenditore privato, sono diverse, non si fa il concorso, non si fa l'esame, si valutano le cose dei 50 anni di vita dell'azienda. Quindi, però riceve finanziamenti pubblici, riceve finanziamenti... Assolutamente no. No, ma anche no. Da aziende pubbliche riceve dei soldi per fare le sue ricerche, o no? Certo, facciamo ricerche per tutti, ma facciamo ricerche in pubblico sui nostri clienti, sono sì. meno del 15%, quindi... No, è un'idea un po' bislacca. È vero, che è vero che non c'è. Siamo un ente pubblico. No, non è un ente pubblico. D'accordo. Non abbiamo mai preso una via di soldi pubblici e questo veniamo giudicati come un ente pubblico. Però mi scusi, non è un bel segnale. Anche il ministro Boschi ha detto che è una roba che non va bene. O no? O doveva stare zitta? E perché l'ha detto? Ha detto che non è un bel messaggio. Chiedetelo a lei. No, capito, ma... Quanti curricula avete analizzato? È un suo giudizio, per quale ragione? Quanti curricula avete analizzato? Senta, lei mi vuole sfotte. No, che sfotte? No, ma veramente... Perché? ma perché io devo stare in mezzo alla strada di Roma a sentirmi dire... Io ho detto, farò un comunicato stampa quando sarà passato. No, d'accordo, tutto. Ma avete analizzato altri curricula oppure era l'unico ma candidato? Tutti ne abbiamo visti quanti ne vuole lei, ma io le dico tutte le bugie che posso dire. No, perché ma bugie? Ma per quale ragione mi sta... Mi deve sfottere, io capisco. Ma non la sto sfottendo, sto facendo delle domande, professore. Conosco la trasmissione. No, scusi, professore, ma le sto facendo delle domande, mica la sto prendendo in giro, le sto facendo delle domande. No, lei mi sta prendendo in giro. Ma perché la sto prendendo in giro? Le sto facendo delle domande. Continua a girare su un argomento che non esiste. Però a lei. Ma se molti se lo pongono questa questione. Chi se ne frega? Ah, chi se ne frega di quello che dicono? Chi se ne frega di quello che scrive in prima pagina la stampa, di quello che scrive Repubblica? Chi se ne frega di quello che scrivono da altre parti? Ma non sono mica responsabile di quello che dicono loro. No, ho capito, ma ci sarà un problema se viene nominato suo figlio, lei che è il presidente, come direttore generale, seppur di un ente non pubblico? Non c'è nessun problema, perché vada dal dottor De Benedetti, all'ingegner De Benedetti, e dice come ha nominato i figli in azienda, non gli dirà che ha fatto il concorso. Ho capito. Ma non è la stessa curriculum. Non è la stessa cosa, eh? Non senta, è un'azienda del Censis che campa da 50 anni, sì, in modo privato, sulle gambe di poche persone, tra cui me stesso. Ma lei dice che conta soprattutto il brand De Rita? Conta anche il brand De Rita, perché no? Cioè è importante mantenere una continuità? Ci sono 50 anni De Rita insieme alla parola Censis e non si può pretendere di mantenerlo. È una strategia imprenditoriale, non mi sembra che sia così scandalosa. Questo le volevo chiedere, se effettivamente c'è una strategia precisa nel fatto della continuità con suo figlio, questo dico. È una strategia imprenditoriale voluta e precisa, mantenere insieme dopo 50 anni il binomio De Rita Censis, siccome il De Rita vecchio ha 83 anni e probabilmente schiaccia tra qualche anno. No, per carità, professore, allora, per carità. Allora, siccome questa è una cosa a cui noi crediamo, a cui io personalmente tengo, mantenere il binomio De Rita Censis, abbiamo scelto anche per questo. Ma è un peccato mortale? No, però professore, quello che succede in Italia, no. è uno scandalo spaventoso in cui prime pagine di giornali. Mi dica lei. No, dica, professore, però mi scusi, anche Parenzo tra l'altro è d'accordo con lei. Io guardi professore, io sono d'accordo con lei. Fin dal primo giorno ho detto tutti gli imprenditori italiani hanno i loro figli in azienda, Barilla e quant'altro, Marzotto, tutti i grandi nomi dell'imprenditoria. E se uno è un'azienda privata che chiaramente lavora anche col pubblico, ma bene per voi che lavorate anche col pubblico, quindi per me non c'è nessuno scandalo, anzi, secondo me è normale, volevo soltanto sapere se avete analizzato anche altri curricula. Dopodiché non era una presa in giro, non era una presa per in me giro. No, posso? Io l'ho difesa fin dal primo giorno, figuriamoci. No, io sono convinto di aver fatto bene, non... Ma siccome sono 50 anni che faccio il capo del Censis e in 50 anni non ne ho sbagliata una, mi sembra, perché altrimenti sì, non saremmo così importanti, così per, sì. Però professore, mi scusi, posso farle una critica? Io invece la penso al contrario rispetto a quello che pensa Parenzo, ma mi sembra che ci sia possibilità di criticarla, no professore? Immagino, no? Non è che sia un attentato all'ordine costituito. No, io ho detto soltanto che quello che ho fatto, sì, ho creduto, lo difendo, basta. No, però c'è una cosa, non è un bel segnale, anche se per carità non è un ente pubblico, pur ricevendo in parte finanziamenti pubblici, il fatto di nominare... Finanziamenti pubblici, per favore. No, finanziamenti, no, contratti, soldi pubblici. Però soldi pubblici ci sono, soldi pubblici in parte ci sono. Ma che significa? Ma se uno va a fare un contratto con una qualsiasi ente, sai, se... Può essere un'azienda privata, un'azienda pubblica, è un contratto, non è un finanziamento. Però, mi scusi. Finanziamento significa un'altra cosa. Sì, però voi avete... Finanziamento a fondo perduto. Però scusi, se voi avete... Ho capito benissimo. Se voi scrivete giovani umiliati, adesso sto riassumendo, in uno dei vostri rapporti, e nello stesso tempo c'è suo figlio che succede, lo dice lei stesso, al padre, non è una cosa bella? No. Perché non è una cosa bella? Scusi tanto. Beh, io allora potrei dirle che io ho 8 figli, di questi 8 figli 3 sono senza lavoro, eppure sono bravi. Mi lamento di questo? No, c'è una realtà di fatto di cui tutti si possono lamentare, della precarietà dei giovani, e c'è una volontà di un'azienda privata di fare una scelta diversa all'interno della famiglia. Veramente lei ha 8 figli di cui 3 senza lavoro? Io ho 8 figli di cui 3 oggi sono hanno lavoro precario. Però scusi, se lei, se suo figlio, come dice lei, è così bravo, perché, perché proprio al Censis? Per carità, senza nulla togliere al Censis, potrebbe essere, potrebbe andare a lavorare in un'altra impresa, sul mercato, perché proprio lì dove è lei? Ma guardi, è molto semplice, l'ho anche detto, ma nessuno mi prende sul serio perché c'è il problema di sfottermi, ma insomma... No, non la sto sfottendo, è una domanda... Ho anche detto pubblicamente, e la giornalista del Fatto Quotidiano l'ha ripreso, ho anche detto che mio figlio ha fatto 4 anni e mezzo di amministratore delegato di Nomisma, che come lei sa è una grande azienda di ricerca, forse la più grande, sì, la più interessante dal punto di vista... fondata da Prodi 20 anni fa. Sì. Dopodiché è venuto a Roma e ha fatto 4 anni del direttore generale della DGPA, cioè della, sì, società che faceva la digitalizzazione pubblica. Questo mi sembra che... Ma qual è lo stipendio? Qual è lo stipendio di suo figlio? Ma lascia stare lo stipendio, l'ho già detto. È lo stesso stipendio che aveva Roma quando è entrato. E quanto? Si può sapere o no? Ma non si può. Ma le pare che l'azienda privata va in radio, a radio quanto paga? Non ha senso. Al ministro vuole rispondere, al ministro Boschi, quando dice che non è un bel messaggio? Al ministro Boschi non rispondo perché non mi interessa quello che ha detto. Beh, ha detto anche che diamo un messaggio non bello alle persone competenti, che spesso credono che conti di più chi conosci rispetto a quello che conosci. Cioè, ha parlato proprio di insomma, dei figli di amici degli amici, eccetera, eccetera. Ma io che rispondo di quello che ha detto la Bossi, no? Non vuole polemizzare col governo. Ma non va, ma sono che non c'entra che polemizzano con me, compreso lei. Ma io non polemizzo con nessuno. Io dico quello che penso, professore. Io ho fatto 50 anni di vita normale senza polemizzare con nessuno. A un certo punto si è scatenato l'inferno, tutti corrono, telefono, dice: ma se l'ha detto Boschi perché lei non vuole dire? L'ha detto Gramellini perché lei non vuole parlare? E chi se ne frega? devo dire che lei, guardi, professore, nonostante il fatto che io la pensi in modo diverso, lei combatte. Senta, un'ultima cosa, professore, ma i suoi 3 figli, quelli che lei dice precari, no? Non è che sono discriminati nel mercato del lavoro perché si chiamano Derita? In parte anche, se vuole. Non è mica facile chiamarsi Derita. Cioè, non trovano lavoro anche perché pensano, padre. Ho detto che sono senza lavoro. Non c'hanno il lavoro tranquillo, sicuro, che hanno tanti altri, perché fanno, altri direbbero precari, no, fanno i lavoratori in proprio, fanno, sì, le piccole società. Però hanno difficoltà anche per il cognome che portano. In parte sì, perché chiamarsi Derita è difficile. Quando mi raccontano che se vedono qualcuno dice ma lei è Derita? Per dire che sia, e poi dicono sì, cambia un po' il tono, e non in modo amicale, con tutto. Certo. Va bene, professore, grazie, molto gentile, grazie. Prego. Arrivederci. Mi sono dimenticato di chiedere una cosa, caro Parenzo. Ma a me è sembrato convincente. A me no, per niente. È anche giusto. No, c'è un'altra cosa che mi sono. A me per niente. C'è un'altra cosa. La questione delle fondazioni, perché è una fondazione riconosciuta dal Presidente della Repubblica. Con decreto. Allora, le fondazioni credo che abbiano anche una tassazione particolare. Attenzione. Beh, un cazzo. Come tante altre. Un cazzo, scusami. Sempre soldi pubblici. Sempre soldi pubblici. Ma un lavoro da 50 anni riconosciuto. Lavora con le amministrazioni pubbliche perché le amministrazioni pubbliche ritengono che il suo lavoro sia fatto bene. Non si mette il figlio nello stesso posto, non è come un'impresa qualsiasi. Non è un'impresa privata qualsiasi e soprattutto non è sua. Se ti piace un mondo così. Ti piace un mondo così, dove vanno avanti solamente i figli, gli amici degli amici, il nepotismo, eccetera. Ti piace un mondo così? Se io devo scegliere uno con cui lavorare. Ma che vuol dire? Uno bravo e anche un amico mio, se posso. Pensa te come stai. Ma certo che sì, se devo fare un lavoro, sì, se devo trovare uno di fiducia. E poi fai la morale al paese con i rapporti, dicendo il paese, i giovani umiliati, il merito, eccetera. Spettacolare. Pubblicità. Spettacolare. Non ce la faccio più, non vi supporto. È un programma brutto, è brutto. battaglia di Vittorio Sgarbi è contro quelli che vogliono impedire al Vittorione nostro di fare una mostra portando un sacco di opere da tutta Italia o in gran parte dall'Emilia Romagna. C'è una raccolta di firme da parte di professori, esperti, eccetera, eccetera, contro Vittorione nostro, che vuole fare, ripeto, questa mostra da Cimabue a Morandi e chiede prestiti a tutta Italia. Se la piglia soprattutto, Vittorio, caro Parenzo, se la piglia soprattutto con un signore che si chiama Daniele Benati, presidente di Italia Nostra Bologna, docente in un altro istituto a Bologna. Senti cosa dice di questo signore qui alla Zanzara, la nuova battaglia di Sgarbi. Prende soldi per le perizie, prende soldi attraverso le considerazioni che fa sui dipinti e ovviamente ha dei rapporti con mercanti che vendono i tasseri all'estero. Questo naturalmente per chi difende il patrimonio artistico è abbastanza singolare. È un poverino, un povero disperato che voleva fare lui la mostra, avere lui l'incarico, e gli ho scippato, lo scrive bene Barilli. Perché voleva fare la mostra lui, se non è una polemica, sono 130 scimmie che firmano senza sapere niente dall'America, dal Canada, sullo stivolo di uno che dice che quasi non si devono muovere dai musei. Benissimo, peccato che si fossero mossi e si muovono continuamente. La nuova battaglia di Sgarbi. Cosa succede nei 5 Stelle? Allora, a Parma si sono incontrati... Beh, povero Pizzarotti, niente. Che povero niente. Pizzarotti? Allora, bisogna dire una cosa. Questi qua vogliono fare la fronda grillo, no? Pizzarotti e gli altri cominciano fanno a... fanno una battaglia politica che non è consentita all'interno dei 5 Stelle. Cioè, il punto fondamentale è che questi qua sono in quel posto. Chi sindaco di Parma, chi sindaco di un piccolo paese, chi deputato, chi senatore... solo grazie al fatto che c'è un matto, solo grazie al fatto che c'è un comico pazzo, il quale un giorno la pensa in un modo, un giorno la pensa in un altro, un giorno si sveglia bene, un giorno si sveglia male, un giorno pensa di fare la rivoluzione, un altro giorno pensa di allearsi magari, il giorno dopo si sveglia e dice vaffanculo a tutti, è così, ma sono in quel posto solo grazie a Grillo. Cioè non è che Pizzarotti esiste in quanto pizza, se Pizzarotti si presenta da solo con scritto lista Pizzarotti a Parma, non lo votiamo io e te forse se siamo a Parma, perché magari io lo voterei, ma è così, ma è così. Questi si illudono, cioè quelli che si sono opposti a Grillo finora dove sono? Li senti più? Li hanno, sono nel dibattito pubblico, dicono o non dicono niente, sono morti, finiti, perché se esci fuori da quella roba lì sei finito, sei morto, perché non eri già nulla prima. Infatti Pizzarotti vuole restare dentro ma cambiare un po' ma di... cosa cambi? Ma non c'è movimento. Nulla da cambiare, perché qualcuno dice addirittura che non ci dovrebbe essere il nome di Grillo nelle liste, ma ti rendi conto? Gente eletta solamente perché c'è scritto Grillo, che improvvisamente dice dobbiamo discutere di nome di Grillo. Giulia Sarti, che è? Sì, Giulia Sarti, un deputato, sentite, senatrice, deputato, non lo so. La proprietà del simbolo del Movimento 5 Stelle è di Beppe Grillo, cioè su quel simbolo c'è scritto beppegrillo.it, quindi noi possiamo insomma pensare un pochino tutto ciò che vogliamo, ma anche questo può essere un nodo e una cosa da discutere per il futuro. Togliere il nome, se vi volete suicidare, suicidate, ognuno c'ha il suo modo per suicidarsi, quello di togliere il nome di Grillo, così chi cazzo lo vuole? È la rivolta degli schiavi. Ma appunto, hai detto bene. Però hai deciso tu di essere schiavo. Cioè l'hai deciso no, autonomamente. No, tu intendo deputato. Cioè tu deputato, tu senatore, tu hai deciso prima di essere schiavo. La rivolta degli schiavi, adesso quella di togliere il nome di Grillo è una stupidaggine, perché loro è chiaro che il brand Grillo è quello che funziona. Loro, perché è ovvio, no? Non è che funziona, e questo è evidente, nasce così, nasce perché il comico ha deciso di fare. Ma è la rivolta giusta, secondo me, le persone che decidono di cambiare la natura di quel movimento, fanno diventare un movimento veramente democratico, sì, alla fine, non vabbè. Grillo, sono il peggiore, votatemi, sentite Grillo. Siamo veramente il peggio, io sono il peggio del peggio. Allora, quando andate a votare, non accontentatevi del meno peggio, votate il peggiore in assoluto. e io sono il peggiore in assoluto. E questa è la realtà. Sono più vivo che mai. Ebbene sì, sono vivo e più vivo che mai, cari amici, nonostante questi tentativi di seppellimento mio, di Casaleggio, del movimento, no, qui c'è il ribaltamento della realtà, i morti vogliono seppellire i vivi, i morti come Marino, come Renzi, vogliono seppellire i movimenti della società civile, non ce la faranno mai. E poi Di Battista, uno di quelli fedelissimi a Grillo, che dice: noi facciamo le espulsioni. Sentite perché fanno le espulsioni secondo Di Battista? Il fatto che noi mandiamo via delle persone che appunto non rispettano determinati patti, quindi espelliamo, significa che non ci tuteliamo neanche come casta. Allora io, dato che si fa le espulsioni, consiglio al Partito Democratico: iniziate ad espellere. Allora, Marcella da Roma, buonasera Marcella. Luciani, ciao, è Marcella da Roma. Dimmi Marcella. Sempre Annarella Vicola. Senti. Come Annarella? Che c'entra Annarella? E tu mi chiami Annarella di Roma. No, a Marcella, sì. Annarella è un'altra Annarella. No, sono sempre io. Senti, del suo fatto da politica qui a Roma. Sì. Ma come separammo noi il culo, noi romani, da questi zozzoni ladri? Io che ne so, per fortuna non abito più a Roma da tanti anni, guarda. Sì, perché l'altro posti da regala, sono meglio. Sì, vabbè. Uno ruba e l'altro frega. Sì, quello è vero, perché li da rubare in tutti i tali. Ma loro destilatori, ma come potremmo fare? Questi non è che rubano, questi fanno a pulire. Che è diverso. Cioè, proprio rubano fino alla. Fino no, agli... non è che rubano, fanno a pulire. E che vuol dire? Non è che pigliano 100.000 euro, se pigliano l'anima delle milioni. Scusami, Marcella, ma che fine ha fatto Annarella, tra l'altro? Annarella quale? Allora, Annarella giovane, tu mi chiami a me. Annarella vecchia è quell'altra comunista. Dov'è? E io non sono comunista. Ma che fine ha fatto? Che mo dici, amica? Che ne sa? Amica tua, amica mia. Quello è vero. Però amica tua e di quell'altro che c'è vicino. Di Parenzo, sì, di Parenzo. Ma sì, scusa, sì. Perché non fate un incontro due Annarella, Marcella? Ma io c'ho 68, lei ce n'ha 80. E vabbè, ho capito, che vuol dire? Ma mi sta pure sulle palle. Ho capito, ma adesso non è che ci devi andare a letto. No, chi ci va a letto? Ma manca a parlarci. No, ma ci devi solamente fare un pranzo, una cena, una roba. Io ti invito a te quando faccio pasta e fagioli, vuoi venire? Beh, volentieri, sì, pasta e fagioli, ottimo. Ma hai detto che mi stai a Roma. Vabbè, Marcello, ciao. Senti, è di questo che ti volevo parlare. Ho capito. Ma la gente si lamenta, io ho sentito 3-4 telefonate prima, uno. Confermo tutto quello che ha detto. Lo so che lo confermi, e lo so. E poi di Salvini che ha detto che non può lasciare Roma ai mafiosi. Chi metti? Destra ruba, a sinistra frega. Lo so, è un commissario per un po' di tempo. Commissario di che? A controllare di che partito? Di che partito? Pure questo è vero, è sempre la politica che lo nomina, pure questo è vero, per carità. Metti? Vabbè, ma qualcosa bisogna fare, non è che si può rimanere così. Ma si può fare, noi vecchi, se dovremmo aver culi giovani. Il problema è uno, sì, i giovani, guarda, spesso sono peggio dei vecchi, perché i consiglieri... Non dovrebbero andare lì a fare a bandierini, dovrebbero colcare botte. Sì, però Marcella, ti voglio far capire una cosa, che i giovani, consiglieri comunali, consiglieri regionali, anni nel Lazio, che sono al centro di questo scandalo. Quanto rubano. Appunto, è quello che ti dico io, cioè non è che sono non sono meno, cioè non sono meno ladroni dei vecchi. Quell'altri. Amico tuo Parenzo dice tocca finanziare la politica. Un par de palle, quelli gli dai a politica i soldi e più l'altro si frega. Brava. Guarda che questi qui i soldi se li sono intascati loro, non è che loro, perché tu pensi che se gli davano dalla politica gli davano nella prima Repubblica almeno rubavano e li davano al partito. Questa volta a quale partito si libertavano loro? Tutti finanziavano le correnti, la DC, anche loro, anche loro si arricchivano. Ma dimmi poi, io rimango senza lavoro, torno a fare un bucio di culo così, vanno a cercare il lavoro. Perché loro narsi nel culo vanno per le case a chiedere i voti? E infatti non c'è più finanziamento pubblico. Ma c'è finanziamento pubblico, però c'è stato il rimborso. Non c'è più, amica mia. E rimborso spese, che sono il doppio dei finanziamenti. Ma dipende, non per le comunali. Allora, Crucià, senti, un'altra cosa. Dimmi, poi Marcella. Poi stiamo andando a merda tutta Italia. Perché non fanno pagare le tasse pure ai mignotti? Quello ma Marcella. Ma che l'Italia si riaddrizza senza il Viagra? Quello è buono, quello è cosa buona, giusta, nostro dovere, eccetera, eccetera. Almeno loro stanno bene e non invece pure. No, ma per carità, ma io sono d'accordo con te. Almeno... Non so che sei d'accordo con te, ma amico tuo no? Lo so, ma Parenzo è diventato no, così. No, su quello Parenzo è strano, lui sa fa chi zingheri. Annarseli al capo di zingheri che sanno che non è, che è un giornalista e ci annate con loro addosso, esce col cazzo senza orologio al braccio, diglielo. E con ma questo qua. Pubblicità. No. Ciao Marcella, ti do un bacio. Ciao, ciao, ciao Marcella. Ciao, ciao. Ciao. Ormai è tutto degradato. Cosa che fa incazzare? Io non so quanta gente sia in collegamento con noi in questo momento, in questo 8 dicembre in cui noi stoicamente siamo qui. Storicamente ci pagano, eh? Non è che storicamente. Comunque siamo qui in diretta. Sì, siamo qui in diretta. No, ma a me non ce ne frega un cazzo. 8 dicembre. Pagati, ma storicamente 24 dicembre. Con le nostre famiglie, con i nostri ma non lo so, ma per te non dovrebbe essere manco festa l'8 dicembre perché è l'Immacolata Concezione. Per cui che cazzo dici? Io però rispetto le feste. Ma che rispetto? Okay, non, però non dovrebbe essere festa. Ebreo sei, non è che adesso ti inventi l'Immacolata Concezione. Non è, no, non io è festa. Rispetto il calendario delle feste. Vabbè, comunque, comunque la cosa. Comunque fatemi lavorare. No. Noi siamo qui al microfono della Zanzara e non so quanta gente adesso sta tornando da questo ponte. Ma, no, e ma, si la, dovrebbe, gente ma la gente si deve incazzare perché abbiamo dato 4 dal 2008 in poi abbiamo dato 4 miliardi a Roma, 4 miliardi per continuare a ingrassare questa gente qui, ma scusa, vabbè, per ma continuare a ingrassare no? Tutti quelli ma che ci mangiano sopra. Ma è dell'Università La Sapienza, non vogliamo dire nulla del figlio del rettore che vince il dottorato, cioè tra gli tanti scandali. Ma che c'entra, scusa, non ho capito. Ma che c'entra questo? Perché abbiamo parlato nell'ordine. Ma che c'entra questo? Sentito. Scusa, non ho capito che c'entra. Se uno accende adesso. Ma che c'entra con Roma? Che c'entra con lo scandalo di Roma nell'università? Roma perché la Sapienza è tanto. Ma che c'entra? Ma che è successo di nuovo? Che è successo di nuovo? Italiano. Ma che è successo di nuovo? Scandalo italiano. Ma che è successo di nuovo? Come hai messo in fila due cose. Uno è la questione di Roma e sulla. Ma cosa c'entra adesso? Non è successo nulla di nuovo con l'università di Roma. Che c'entra? Il caso del dottorato vinto dal figlio del rettore. Ancora. Non a parte che non è più il rettore. Ma anche questa sarà una roba di cui parlare, no? Ma di cosa parli? Ma quando è successo? Ma è il direttore Frati. Arrivederci. Ancora? Grazie. Ma che cazzo c'entra grazie. Frati? Ma questo è impazzito completamente. Non c'è, uno non sa un cazzo da dire e parla di Frati, che è l'ex rettore di Roma, non è più rettore, col figlio che vince. Ma ne abbiamo parlato 40.000 volte qui la Zanzara. Che minchia c'entra Frati? Ed è ancora da ridire, però. Ed è ancora da ricordare, perché tra i tanti. Ragazzi, purtroppo, perdonateci. Andrea da Roma. Pronto? Vai Andrea, dimmi. Sì, rapidissimo. Volevo dire, questa ultima proposta di Berlusconi è veramente stravagante, questa della vignetta. Nel senso, potremmo fare Boldi a Milano, Totti a Roma, Mastelloni a Napoli. La crisi della politica è una soluzione della crisi della politica, anche quella, cioè della crisi dell'ideologia probabilmente. È una... Ragazzi, ma fare il sindaco, come dimostrano i casi di tantissime persone, anche Cacciari prima faceva il filosofo e poi a un certo punto ha fatto il sindaco, non è che avesse questa grande esperienza amministrativa, è vero che uno che ha fatto sempre politica. No, cioè... ha sempre fatto politica, è stato anche deputato. Okay, però non ha avuto, no, però non ha avuto, non aveva esperienza amministrativa, faceva il professore universitario, per carità, va benissimo, però... se uno si circonda, io non sto parlando di Mara Venier, sto parlando in generale, non è che ci vuole per forza la grande esperienza di amministrazione, di conoscenza, basta circondarsi di collaboratori validi, di gente che poi sa le cose. Tu puoi anche vincere le elezioni di una città perché ti chiami Pinco Pallo. Adesso non lo dico in difesa di Mara Venier, ognuno può fare quello che vuole nella vita, anche secondo me, poi a parte che secondo me non lo farà mai lei, ma comunque insomma, al di là di questo. Allora, bisogna avere l'intelligenza di circondarsi di bravi collaboratori e per fare questo bisogna avere anche un po' di esperienza. Vabbè, ma quello, insomma, quello è chiaro. No, è come Alemanno che improvvisamente, dopo essere stato salutato da una selva di saluti romani, scopre che intorno c'aveva i fascisti della banda della Magliana. Vabbè, ho capito, non è che lo puoi scoprire dopo, lo puoi scoprire già il giorno stesso in cui ti hanno eletto. Insomma, mi sembra questo il minimo. E poi l'ultima cosa... la vicenda di Derita con gli 8 figli, ma lì ci vuole uno bravo, perché uno che mette al mondo 8 figli prima di tutto deve andare a parlare con uno bravo. Vabbè, adesso non esageriamo, uno può fare 8 figli, ognuno può fare quello che vuole. È vero che a me sembra leggermente esagerato, però è una vecchia generazione, quello c'ha 83 anni, ha fatto 8 figli, non è che lo possiamo condannare per questo. Certo, poi bisogna guadagnare un sacco di soldi, perché bisogna sti figli insomma foraggiarli in Italia fino a una certa età. Trafic, poi torniamo. Ma dai, ma per favore, ma Cruciani, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia più totale e tutti stanno zitti, ma stiamo scherzando. Oh, battutona del professore Becchi, professor Becchi. Mafia capitale, il PD rischia di passare dal 41% al 41 bis. Non è male però, questa non è male, devo dire, il professor Becchi, Divertente, però dovrebbe guardare, diciamo, che dovrebbe persone guardare? Coinvolte. No, persone coinvolte, non ce n'è manco una dei 5 Stelle, quella è evidente. Chi? Dei 5 Stelle, ma lui focalizza sul PD. Tu devi capire una cosa. Il PD è al governo di Roma da un anno e mezzo. Io ho detto ha che il PD, coinvolto il PD in questa vicenda cooperative molto, molto vicine al Partito Democratico. Molto vicine al Partito Democratico. Ci sono tre persone che si sono sospese dal partito, ma non c'entra niente che si sono sospese, non si sono sospese, il commissariamento, quelli sono, come dire, sono consenti. No, non li voglio in galera, non li voglio affatto in galera, tutt'altro, sto dicendo che è coinvolto fino al collo il Partito Democratico in questa vicenda, fino al collo. No, ci sono delle responsabilità politiche. Ma, c'è l'ex capo di gabinetto di Veltroni che è accusato. Ma come non è del PD? Ma è molto vicino al Partito Democratico. Era un estremista di sinistra prima. Ma cosa c'è? Ma questa è una stupida. Ma che c'entra? Ha la tessera è stato molto vicino. È un estremista di sinistra. Ma no, è stato al tempo. Ma non c'entra nulla. Ma non è che io sto dicendo che per questo è colpevole. Sto dicendo semplicemente che ci sono persone che erano nell'amministrazione. Non è un tecnico, è uno della sinistra romana. Dai, su, non dire pazzo, va bene, tecnico. È un tecnico, hai ragione tu. Certo che è un tecnico. Certo, ma ho ragione io. Va bene, d'accordo. Buzzi invece non è vicino al Partito Democratico, scusami. Certo, è uno delle cooperative, Buzzi, certo. Ah, beh, lui ma sì. Ma quell'altro è un tecnico. Cosa pazzesca, guarda. Devi dire le cose corrette. Bene, le cose corrette. Dunque, il PD sono dimessi. Ma che vuol dire? Ma te credo che si sono dimessi. Ma è normale che si sono dimessi. Ma erano assessori della giunta. Erano assessori della giunta attuale, non di quella vecchia. Ma io mica li difendo. Ho capito, ma come fai a dire che non è coinvolto? Tu hai detto sono coinvolti pochi esponenti del Partito Democratico. Io dico che si chiama appunto mafia capitale, che è un'inchiesta, come si è detto fin dal primo giorno, che riguarda alcuni pezzi dell'amministrazione di Alemanno, manco tutti per perché alcuni assessori di Alemanno sono stati è una storia che risale alla giunta Veltroni. Ci sono funzionari, cioè tecnici, funzionari, come quello che sì, tu hai segnalato, come il signore che tu hai segnalato, l'ex sindaco di Roma Alemanno, l'ex sindaco Alemanno. Sì. E questo signor Odevaine che era anche quel capo di gabinetto di Veltroni. Un tecnico preso da Veltroni, un tecnico, uno che era lì, e che a detta del signor Serra, del signor Achille Serra, non del signor Bauer. Era una bravissima persona. È stato un. No, io ho letto l'intervista all'Huffington Post oggi in aereo da Londra a Stansted. Non è importante. Non mi dovrei. Sono letto queste interviste fatte dal signor Serra all'Huffington Post. E che è la cosa, è che è l'oracolo. Anche un uomo come Serra, anche un uomo come dice, io me lo ricordo all'epoca di come gestì tutta la questione. Siamo tranquilli, e allora. Non avrei mai detto da te che il titolo è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Non avrei mai detto che una persona simile. Quindi è un tecnico, è una persona, non è un Lorenzo tema che riguarda un partito. Lorenzo da Roma. Come no, infatti a Roma ha governato fino all'altro giorno, ha governato mio nonno in carriola. Come Lorenzo da Roma. Non penso che riguardi il PDL romano la vicenda di Alemanno. No, come riguarda il Forza Italia di Roma alla grande, come no? Alla grande. Ma non riguarda le persone, non riguarda riguardano alcuni pezzi, riguarda Alemanno. Vabbè, Lorenzo da Roma. Ma che vuol dire alcuni pezzi? Certo che alcuni pezzi, che non sono tutti dalla prima all'ultima persona, ma quella allora, è evidente. La battuta di Becchi si può riferire sicuramente sia a quelli del PDL coinvolti, sia a quella del PD. Ma guarda caso, me la faccio quella del PD. Lorenzo da Roma. Questo è il senso della mia polemica con Becchi. Lorenzo da Roma. Pronto? Dimmi. Ricordo a tutti gli smemorati, compreso Parenzo, che le elezioni, le primarie del PD a Roma, sentite? Sì. Vennero vinte da Marino, nessuno se lo ricorda, grazie a un afflusso notevole di zingari che poi vennero intervistati e sermentarono perché non avevano avuto corrisposto quanto previsto prima di andare a votare. questo uscì, ci fu l'intervista, però nessuno se lo ricorda. E ricordo sempre a Parenzo, che non so come leggi le storie, Micaela Campana è stata intercettata con il messaggio Grande Capo, ma con le telefonate che parlava di affari da svolgere. Ma possibile che queste cose... No, è la storia di una roba da presentare alla Camera che poi lei non ha fatto, un'interrogazione su questa questione delle cooperative. No, le telefonate hanno pizzicato lei con Buzzi, per cui... Sì, ho capito, non è che conoscere Buzzi sia di per sé un'indicazione. Io ne faccio una questione politica. Se uno chiama Grande Capo quello che è considerato il capo della cupola, in altri periodi, se la signora Campana non fosse stata un esponente del PDL di Forza Italia e parlava col cosiddetto capo della cupola, perché Buzzi è considerato il capo di una mafia, questo dobbiamo dirlo chiaramente, no? Se stiamo a quello che scrivono i giudici, quello che scrivono i giornali, questo Buzzi è considerato il capo dei capi, una specie di Totò Riina romano, no? Adesso, a chi gliel'ha mandato gli zingari a votare, secondo voi? Io questo adesso io non lo so, Lorenzo, questa roba qua, io sto dicendo semplicemente, se Buzzi viene considerato il capo della cosca, il grande capo della cosca, chiunque abbia avuto contatti anche indiretti col capo della cosca, comunque politico, no, ma cioè, voglio dire, in qualche modo è coinvolto in questa roba, nel senso, è coinvolto, non che è colpevole, cioè deve rendere conto di questa cosa. Invece la signora Campana dice: oddio, il linciaggio. Ma quale linciaggio? Sei al telefono e mandi messaggi al grande capo, considerato il capo della cosca, dicendo grande... è un po' come la vicenda di Tommaso. No, ma la cosa vergognosa è quello, cioè, che avrebbero fatto al contrario. Mammucari. Al contrario, avrebbero fatto l'inferno. No, ma d'accordo, ma prova a pensare a Mammucari. Mammucari è un Mammucari delle Iene, lì che conduce le Iene, simpatico Mammucari. È finito in mezzo a questa inchiesta ed è finito anche giustamente sui giornali, perché poi ci arrivano a noi le ordinanze, le leggiamo e poi i grandi nomi finiscono fuori. Io non faccio nessuna polemica, va benissimo. Prova a pensare a Mammucari, no? Che conosceva anche lui, non si sa come conosceva questo. Beh, questa è un'altra vergogna per cui diversi VIP, non parlo di Mammucari, si affidano spesso a personaggi poco raccomandabili per risolvere dei problemi. Ma in quel caso lì non c'entra nulla, perché non è che si affidano a persone per risolvere problemi. De Rossi chiamava quello per risolvere un problema. Sì, purtroppo è il sistema italiano, per cui dici: conosco quello e quindi esatto. Avanti. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente di chi è. In quel caso lì non c'è neanche la pratica, perché come hai visto nella vita di Mammucari, magari ci possono essere anche semplicemente amicizie, cioè delle persone che si conoscono in alcuni contesti e quindi finisci in mezzo a quella cosa. E povero Mammucari è uno di quelli che finisce in mezzo a un'intercettazione idiota tra lui e questa persona intercettata. Fine, chi l'ha letta? Dice: ah, cazzo, anche Mammucari, no? Povero Mammucari è finito nel mezzo a quel tritacarne, per cui ha mandato un messaggio, o si sentiva per consulente sulla palestra, non mi ricordo, mi pare fosse una palestra, o non mi ricordo neanche. Ma uno deve sapere sempre a chi si affida. Se sei un personaggio pubblico, devi sapere sempre a chi ti affidi. Fai fare un'indagine da un investigatore privato. No, ma che c'entra le cene? Qui non è che mando messaggi a criminali. Aldo, provincia di Salerno. Che ne sai che uno? E comunque devo stare attento pure io. Devo stare attento pure io. Ma Mammucari sapeva che era un criminale. Ma non lo so, ma se hai i soldi, vai siccome non sai a chi ti affidi, perché in questi casi c'è gente che ti vuole fottere. Purtroppo non è così. Sì, perché finire in mezzo alla rete di questa roba qui è facilissimo. Lo so, ma purtroppo però non è che puoi attaccare poi la stampa. Altra cosa sono questi criminali che hanno responsabilità sia del PD che di... Aldo, provincia di Salerno, fammi sentire. Buonasera, Aldo. Buonasera. Dimmi. Io sono un consulente del lavoro. Sì, dimmi. Bravo, niente, vabbè, io mi allacciavo al discorso delle raccomandazioni. Sì. A mio parere, viste le mie esperienze personali in questo paese, se ci fosse un po' di civiltà, istituirei proprio un reato per questo tipo di... Cioè, che reato? Scusi, non ho capito. Il reato nella raccomandazione dei concorsi pubblici non è, voglio dire, è una truffa. Se esiste già. Un concorso, esiste. Cioè, se uno supera un concorso con la truffa. C'è un reato. No, ma io le dico una cosa, lei si rivolge, lei probabilmente si fa riferimento alla vicenda De Rita di cui abbiamo parlato, no? Allora, la questione De Rita è molto semplice. C'è una cosa scandalosa nell'Italia che è il familismo, cioè quello che viene chiamato il familismo amorale, cioè dire il fatto che in molte cose che riguardano non solo la cosa pubblica ma anche le cose private, si favorisce la famiglia, è la cosa peggiore del nostro paese, una delle cose più devastanti per l'Italia, cioè il fatto che tu prima di tutto pensi alla tua famiglia, non importa se quella persona è brava, è onesta, cioè, prima di tutto pensi alla famiglia, è la cosa più devastante per l'Italia degli ultimi 50 anni, una delle cose che hanno devastato questo paese è il fatto che uno pensa a mettere a posto i propri familiari, che siano bravi, che siano delinquenti, che siano capaci, che siano incapaci, prima di pensare al resto. purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglioni. Allora, però io, Parenzo, non mi voglio arrabbiare con te, perché non è il caso di arrabbiarsi, perché stiamo facendo una sana polemica intorno a questa vicenda di Marino, no? Se si debba dimettere, se debba essere commissariato il Comune di Roma, quanto c'entri, quanto non c'entri, quanto conosca il cosiddetto capo, uno dei capi di questa. Ma debba dimettersi più per le multe che non per questa roba, perché se ti ricordi. No, ma aspetta, allora c'è un ordine, ti vorrei segnalare alcune cose mettendole in ordine. Allora, sono indagati, ma io mi rifaccio anche al metro di giudizio del Partito Democratico, che spesso metro di giudizio molto punitivo. Allora, sono indagati il presidente del Consiglio Comunale di Roma, l'assessore alla casa, un altro importante esponente del PD, credo un altro assessore si è dimesso dal suo incarico, un consigliere regionale indagato, importante, Patanè del Partito Democratico, uno molto legato all'ex capo dei trasporti Di Carlo dell'epoca Veltroni. Il capo della segreteria di Marino è stato fotografato dai Ross insieme a Buzzi, capo della segreteria di Marino. La segreteria. Per carità, non è un reato, Lo stesso Marino ha ricevuto 30.000 euro durante la campagna elettorale da Buzzi. Sì, il quale finanziamo un po' tutti, mi pare. Finanziamo tutti. Tanto comunque ha preso metà dei suoi soldi dalla campagna elettorale. Sono fino a prima sembrava una cooperativa. Metà di dei suoi soldi dalla campagna elettorale vengono da lì. Tra l'altro c'è anche la follia che bisogna rimarcare, per cui uno che finanzia la politica, tutta la politica, destra, sinistra, consiglieri comunali, consiglieri locali, circoscrizionali, eccetera, dopo ottiene finanziamenti pubblici, cioè c'è un conflitto di interessi spaventoso, cioè tu finanzi Marino con 30.000 euro e poi godi di finanziamenti pubblici dallo stesso Marino, incredibile. Comunque, soldi per la campagna elettorale, affari che sono aumentati, appalti comunque mantenuti, anche aumentati da parte delle cooperative legate a questo Buzzi durante l'amministrazione. Questo l'aveva detto anche lui, Marino. Anche lo ha rivendicato. Marino che promette il primo stipendio e poi non lo dà perché dice che si è scordato alla stessa cooperativa di Buzzi. Cioè tu metti questo elenco e poi dici il Partito Democratico cosa c'è? Il Partito Democratico è impalagato fino al collo. Poi per carità, sarà pure la destra fascista, Carminati, Alemanno, tutti i fascisti che ha messo, ex fascisti, gente legata al terrorismo nero che ha messo nelle municipalizzate, i dipendenti delle aziende pubbliche locali che sono stati aumentati dallo stesso Alemanno a dismisura durante la sua. All'ATAC, sì. Le nomine che lui. Guarda che i dipendenti si rispartivano insieme, l'ha detto pure Coso, l'ha detto pure. È il diritto del sindaco fare lo sportista e quindi mettere chi ti pare a guidare le aziende pubbliche. Questo lo fece Alemanno, no? Di cambiare tutto e mettere i suoi a capo dell'ATAC, ad esempio. Stessa cosa lo sport system ha fatto anche Marino, ma non è questo il punto. No, è qual è? No, la cosa c'è. Un attimo, abbiamo un ospite, fermo un attimo. Prima c'è Luigi dalla provincia di Pavia, subito. Luigi, vai, dimmi. Sì, Cruciani, ciao, buonasera. Dimmi. Ma volevo sapere una cosa, ma i tempi del Montepaschi, Penati, Mattese, Unipol, tutti garantisti. Quando capitava invece a Milano sul San Raffaele, perché c'era qualcuno del centro-destra, erano tutti ladri, mentre invece a sinistra tutti tecnici. Come mai viene dato questo giudizio da parte di Parenzo che per quanto riguarda una mazzetta o presunte tali da personaggi dell'estrema destra o della destra sono ladri, quando capita a sinistra vengono chiamati? Chiariamo subito una cosa. Intanto il Partito Democratico, quelli che sono coinvolti a Roma, uno si sono dimessi, due si sono colpevoli, devono pagare. Ma nella Lega se ne sono dimessi parecchi del vecchio zoccolo duro. Io ho detto semplicemente che lo dici, però Parenzo c'è un è arrivato. No, un assolutamente. Parenzo, un bigottino. È arrivato un signore a commissionare il partito che si chiama Orfini, che sta azzerando tutti i vertici del partito a seguito di questa vicenda. A Milano è arrivato uno che si chiama Salvini al posto di Bossi e del Trota, ma nessuno da parte. Esattamente. Da parte tua. Fermi lì, è arrivato un ospite, fermi tutti. Vogliamo sapere qualcosa in più su che fine farà Beppe Grillo da un regista che è stato uno dei miei registi preferiti, anche se non capisco una mazza di cinema, però te lo ricordi quel mitico film, come si chiama quel mitico film? Sono tanti di film. Beh sì, no ma mitico film. Commedia italiana. No, mi sembra di ricordare, ma nella mia ignoranza pazzesca, che il film, quello, un film, e devi dirmi il nome, però sennò è difficile, o almeno l'attore, lo sceneggiatore, di cosa parla? No, no, forse mi sbaglio, ma Amore Tossico, di chi era il regista? No, non è lui, non è lui, non è lui. Ho capito Amore cosa vuoi dire. No, no, Silvano Agosti, buonasera. Buonasera, tu vuoi dire D'amore si vive? Forse. D'amore si vive, esatto, bravo, bravo, D'amore si vive. Comunque Amore Tossico è un film straordinario. Straordinario, stupendo. Sì, straordinario. Neorealista, stupendo. Straordinario, sì, straordinario. Senti Silvano, grazie. Ciao, come stai? Io fino a 99 anni sto bene. Cioè, tu dici fino a 99 anni starai alla grande? Sì. Beh, come fai a saperlo? Scusa, per carità, te lo auguro, te lo auguro fortemente. Lo so perché faccio una statistica, no? Se tu sei stato bene per 60 anni, è chiaro che per altri 30 ci puoi stare bene. Ma guarda, io sono estremamente contento della tua sicurezza, perché io invece ho dubbi ogni secondo su come potrò stare. Lo so, ma tu hai delle caratteristiche che io invece non ho. Cioè, quali sarebbero? Quelle di essere troppo, di vivere... No, di... no, io ho lavorato sempre 3 ore al giorno e tu no. Io non ho mai umiliato una donna trasformandola in una moglie e forse tu sì. Forse sì, è vero. Cioè, tu non ti sei mai sposato in questo senso, dici? No, in nessun senso. Io ho una compagna meravigliosa che non ho mai umiliato nel gioco feroce della convivenza matrimoniale. No, questo è interessante però come concetto, perché io mi sa che su questa cosa, pur essendomi sposato, ho la stessa tua visione. Cioè, il matrimonio è per la donna è una specie di gioco, qual è? No, è una cosa intollerabile. A meno che si risolve molto facilmente. Nel mio libro Lettera a Kirghizia ho proposto per la soluzione di questa ferocia, sì, che a 18 anni viene regalata una casa a tutti, sì, e quindi lei ha la sua casa, tu hai la tua casa e state insieme solo perché lo desiderate, non per ragioni edilizie. Questo è molto molto bravo, applauso, applauso a Silvano Agosti, applauso, perché questa sarebbe la vera... È difficile, Silvano, però immaginare che uno... È difficile immaginare che si regalino le case così, No, non è difficile, perché si può regalare una casa a tutta l'umanità con il 10% delle spese militari. Quindi se i vostri amici guerrafondai si convincessero a rinunciare al 10% delle loro porcherie, ci potrebbe essere una casa. Ma il problema è che nel momento in cui tutti avessero una casa... succederebbe che non ci sarebbe più bisogno di sguerrafondai e quindi loro non ci staranno mai a rinunciare a 10%. Ma comunque io in questi casi mi limito semplicemente a dire tutti, sì, coloro che pretendono o desiderano modificare il mondo, sì, battano su questo stesso punto. Cioè? È fondamentale una casa per tutti risparmiando sulle spese militari. Una casa per tutti e 2 pasticcardi in qualsiasi ristorante per tutti, che lavorino o non lavorino, non ha nessuna scusa importanza. Ma i ristoranti chi li gestisce? Beh, però non è male, però. Chi li gestisce i ristoranti? No, i ristoranti gestiscono gli stessi che gestiscono i ristoranti adesso, ma siccome ci sono coloro... E chi paga? Ma scusa, chi ti credi che prenda tutti i soldi, le montagne immense di soldi che vengono su dalle tasse? Lo Stato? E allora? Ah, lo Stato paga. Ma io lo chiamo più volentieri la comunità. La comunità, vabbè, chiamiamola la comunità. Tu però sogni una rivoluzione, in sostanza. No, per carità, sogno semplicemente che ognuno abbia una casa. Sì, però per carità, può anche essere una visione importante che ognuno di noi abbia una casa. Soprattutto tu dici, perché in questo modo si eviterebbe il matrimonio, perché il matrimonio spesso... Ma no, eviterebbe il matrimonio, scusa, non è che uno evita di darsi le martellate sul ginocchio. Lui non se le dà perché non è naturale farlo. Il matrimonio, dici? No, le martellate. Ah, le martellate, dici. Ma sì, invece il matrimonio è una cosa innaturale, secondo te? Ma il matrimonio non ha nessun senso, ma nessuno. Oppure uno può anche sposarsi. Basta che lui abbia la sua casa e lei la sua casa. Perché in questo modo si elimina ogni affare, diciamo, di soldi. E no, è perché la convivenza. Sì. Sgretola qualsiasi sentimento. È vero, su questo non c'è dubbio, Silvano. No, ma questo è vero. La convivenza spesso distrugge il sesso. Questo diciamola tutta, Silvano, no? A parte il fatto che questa umanità che si accontenta del sesso quando fare l'amore sarebbe l'esperienza più straordinaria della propria vita, sai, è un po' strano. Vabbè, sai, il sesso va bene, adesso ci vuoi eliminare pure il sesso, mi vuoi togliere pure il sesso, amico mio, No, togliere il sesso. ti voglio dare come, che, come dire, tu hai diritto all'oceano e ti accontenti della vasca da bagno, tu, non è che te la tolgo dandoti l'oceano, ti do una vasca immensa e ti do... lo so, perché tu consideri che fare l'amore sia una cosa e il sesso è un altro. Che il sesso sia l'aspetto più insignificante del fare l'amore. Non lo so, vabbè, sai, io ho invece un'idea diversa, un'idea che fare l'amore, sì, va bene, però dopo un po' uno ha bisogno pure di un'adrenalina maggiore, no? Di un'adrenalina, uno scatto. Ma guarda che l'adrenalina più potente in assoluto è proprio fare l'amore, ma non è capace nessuno di farlo, non ti preoccupare. Dici? Sì. Tu ce la fai? Tu mi fai le stesse domande che facevano gli scribi e i farisei a Gesù Cristo, ma io non ho questa importanza. No, vabbè, ma che ne so, tu pensi di riuscirci. Ti posso dire sì, che per fare l'amore bisogna intanto, come per qualsiasi modifica alla situazione umana, intanto bisogna tenere presente che ogni essere umano è il massimo capolavoro che la natura ha creato in 5 miliardi di anni. Vabbè, quello. Non tutti gli esseri umani, però, amico mio. Tutti, assolutamente, fino a 3 anni di età. Anche Hitler. Hitler non aveva 3 anni. Ci sto dicendo fino a 3 anni di età. Sì. Tutti i bambini si rivelano essere un immenso capolavoro. Vabbè, certo, questo non c'è dubbio. Bravo, tutti. E dopo c'è la selezione razziale, nel senso che il bambino viene prima mammizzato, poi scolarizzato, poi lavorizzato, poi disoccupatizzato, poi raizzato, poi eccetera. Secondo te quanto bisogna lavorare al massimo al giorno? Te l'ho già fatta questa domanda. Io ho lavorato al massimo sempre 3 ore al giorno, che è il massimo assoluto, compresi gli straordinari. Cioè al massimo, oltre le 3 ore uno diventa appunto lavoro... Sbaglia. Fa errori, fa pasticci, diventa improduttivo. No, ma è interessante questa cosa. Io ovviamente lavoro molto di più e sono esattamente l'opposto di quello che tu puoi immaginare, vita frenetica. Non tutti, il 97% delle persone. Lo so. Allora, almeno di noi. Cioè, diciamo, bisogna anche campare su alcune cose. Campare è la cosa più squallida che si possa fare laddove si potrebbe vivere. Senti una cosa, ma vorrei chiederti qualcosa su Grillo, perché tu sei stato molto vicino al Movimento 5 Stelle e per un periodo scrivevi delle lettere sul blog di Grillo indirizzate a Grillo stesso. Hai smesso di scriverli a Beppe? Dunque, innanzitutto io non ho mai scritto lettere sul blog, l'ho scritto sul mio blog. L'hanno messe lui, poi le metteva. Lui le ha messe sul suo blog. Sì, in questo senso. Inoltre le mie 7 lettere sono delle lettere molto severe, tra cui nella prima, che risale a 2 anni fa, c'è scritto che qualsiasi purga ricorda le purghe staliniane. Bravo. E che chiunque abbia un parere diverso dal tuo, gli ho detto a Beppe, va premiato, non punito, non espulso. E dunque queste espulsioni di adesso come le vedi? Molto male? No, non è che vedo molto male, vedo qualsiasi espulsione è una cosa demenziale. Che sono purghe staliniane secondo te? No, io gli ho detto che ricordano le purghe staliniane. Hai ragione. Ma secondo te è ancora una speranza Grillo, come tu hai pensato? No, io proporrò forse nell'ultima lettera che scriverò a Grillo. Gli proporrò. Sembra la lettera agli apostoli, sembra. Bellissimo. No, la lettera agli apostoli è un'altra cosa. Sembra quello. Vabbè, insomma, che cosa proporrai? No, che ha letto, Parenzo non ha letto niente. Dimmi un po' che proporrai. Io proporrei a Beppe Grillo di capire che il suo ruolo è finito già da circa 2 anni. Da 2 anni è finito. Lui è stato un grande imbonitore, è stato un grande lattratore, è stato un grande collezionatore di persone disperate. Però adesso lui è finito. Se il suo compito era quello di pulire le stalle, come ha fatto Ercole nelle 7 fatiche, di pulire la stalla del Parlamento, potrebbe anche continuare a cercare di pulire, perché non è che proprio è stato pulito il Parlamento, capito? Per cui non ho capito, adesso lui dovrebbe semplicemente tornare a fare l'attore, fare un bello spettacolo riassuntivo di tutto quello che ha vissuto fino adesso e, per così dire, rimanere a disposizione come consulente. E questi che stanno in Parlamento che devono fare secondo te? Io gliel'ho già consigliato, lasciare 4 persone in Parlamento che prendono appunti. E loro andare in giro ma questo è interessante, ma è fighissimo questa cosa. E loro andare in giro nelle strade, nelle piazze, nei bar, nei supermercati a raccogliere l'idea che la gente ha di una società meno lercia, meno repulsiva. Tu che faresti ai colpevoli quando verranno, come dire, trovati, definitivamente condannati di questo sacco di Roma che cui stiamo assistendo? Ma vedi, la peggiore pena per uno che fa quelle cose lì è farle. Ah, la peggiore pena è farle, ho capito. Beh, però anche un po' punirle magari non sarebbe già, no, la punizione, guarda, la punizione intanto in una società come questa, la punizione vuol dire un'ingenuità senza limiti, non si puniscono le persone disperate. Queste persone rivedono... I ladri si hanno rubato, però, amico mio, scusa, se uno ha rubato... Ascolta, un ladro è ladro in una società dove tutti hanno da mangiare e tutti hanno da dormire. Se no non si chiamano ladri, secondo me. Se no non si chiamano ladri, si chiamano disperati. Beh, questi guarda che non solo avevano da mangiare e da dormire, ma volevano solo arricchirsi. Però io ti chiedo... Forse non hai capito. Io non ho detto che loro non hanno da mangiare, lo so che voi siete... state galoppando sulla superficialità. No, però... vabbè, adesso non esageriamo. No, però io ho detto... In una società in cui tutti hanno da mangiare. Allora chi ruba è veramente ladro, questo vuoi dire? Tutti, quando tutti avranno una casa, tutti avranno da mangiare, allora chi ruba? Vedi, io ho scritto un libretto che si chiama Lettera della Kirghizia, e lì... Però se vuoi ci risentiamo un'altra volta, adesso devo chiudere. No, veramente, non voglio. Niente, siete stati voi a volere me. No, ma io ti voglio ancora, solo che purtroppo, sai, le musichette, la fine del tempo, siamo schiavi di queste robe qui. Io ti voglio fortemente, fortemente. A domani 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.